GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. In attesa di ritrovare i suoi gol, la Fiorentina ha già di che festeggiare per la permanenza di Adrian Mutu. Oltre 2.000 gli abbonamenti venduti in una sola giornata ieri dopo la decisione del presidente Andrea Della Valle di bloccare la cessione alla Roma del romeno. Contento anche il compagno d'attacco, Alberto Gilardino. Sia il mister che Adrian sono due persone importantissime per la Fiorentina e per Firenze e quindi sicuramente grazie anche ad Adrian, ma credo a tutta la squadra, e cercheremo di fare una grande stagione. Intanto l'Inter di Mourinho muove i primi passi. Ieri a Brunico successo per 1-0 contro i sauditi dell'Al Hilal, grazie a un gol di Burdisso. Oggi visite mediche per il neoacquisto Muntari. In casa Milan, Ancelotti si dice soddisfatto del nuovo arrivato Flamini. Flamini è un giocatore completo, non ha nessuna difficoltà di inserimento, è andato molto bene, molto continuo, sono molto contento che lui sia con noi. 4 mesi di squalifica per il livornese Balleri, ammenda di 25.000 euro nei confronti del Livorno per responsabilità oggettiva, prosciolti gli altri giocatori e nessuna penalizzazione per Atalanta e Livorno. Questa è la sentenza della disciplinare sul presunto caso di illecito sportivo tra bergamaschi e toscani nella scorsa stagione di Serie A. Oggi di fatto la nuova annata prende il via ufficiale con la stesura dei calendari 2008-2009 di Serie A e B. Non ci saranno teste di serie e big match possibili fin dalle prime giornate. La Serie A inizierà il 31 agosto e finirà il 31 maggio, la B invece comincerà il 30 agosto. E ora il ciclismo dal Tour de France, che già guarda la decisiva cronometro di domani, arrivano altre novità nella lotta al doping. Che è incastrato Roger Rabbit Ricco? Pare una molecola spia, una piccolissima molecola posta nella nuova rivoluzionaria EPO di terza generazione prodotta da un'azienda svizzera che ha svolto il ruolo di spia, segnalando all'insaputo degli interessati all'inganno la presenza di questo farmaco. Qui in Francia, alla vigilia della crono che domani deciderà il Tour de France, non si parla d'altro. Questa piccolissima molecola che ha messo a spalle al muro il corridore modenese e potrebbe ora mettere al muro tantissimi bar alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino, che il direttore della WADA, l'organismo mondiale antidoping, definisce la più dopata della storia, apre nuovi fronti. Per il resto si parte questa mattina da Rouen con Carlos Astre in maglia gialla, tappa per attaccanti, per uomini forti, per uomini fuori classifica prima del grande finale di domani. Cade Evans, il canguro volante, è pronto al grande salto. Lui e il suo team sono convinti di poter recuperare 1:34 a Sastre, passando quindi dal quarto al gradino più alto del podio. Per Augusto Stagi, Giro 24, Sole 24 Ore, Rouen. Doping e polemiche sui costumi scuotono il mondo del nuoto a 2 settimane dai Giochi Olimpici di Pechino. La nuotatrice americana Jessica Hardy, campionessa dei 50 e 100 stile libero, è risultata positiva a uno stimolante. La Hardy, 21 anni, ha già lasciato il ritiro della nazionale americana. Sul fronte dei superbody è rottura definitiva tra Filippo Magnini e l'italiana Arena. Il bicampione mondiale dei 100 stile libero a Pechino correrà con il laser racer della Speedo, con il quale finora sono stati stabiliti 47 nuovi primati mondiali. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.